Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stiamo testa di cazzo internazionale. Stiamo parlando, stiamo parlando. Stronzo che non sei altro. Ma che dici? Ma che cosa stai parlando? Ma una volta facevi il giornalista, anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Ma senti, ma perché continuano ad tenere questo coglione di Parezzo che è una cosa raccapricciante? Non si può sentire, fastidioso, fastidiosissimo, è una cosa, è vultevole. Io capisco che buca il video, beh certo, anzi buca la radio, perché mi serve per fare, per devastare. Devastare. Guarda, veramente sei raccapricciante, guarda, sei una cosa scandalosa. Scandalosa. Scandalosa. Parenzo, io sono Nicola di Calimera di Calabria. Denunciami pure, grandissimo comunista di merda. E tu sei solamente una checca repressa che deve togliere il velo. Tanto ormai lo sa tutta Italia che sei riccione. Sei riccione. E comunque, tutti i sir ti sento parlare di Pilu, Pilu, Pilu. Ma che cazzo parli tu a fare di Pilu? Che non è cosa per te a parlare di Pilu, perché tu sei debole di schiena. Riccione! A questo gioco al massacro io non ci sto. Sì, siamo qui a combattere, siamo qui a combattere, caro Parezzo, viva la libertà sempre, il Bagnino, hai sentito questa notizia meravigliosa, il famoso Bagnino di dov'era, il Bagnino che non mi ricordo, di Chioggia, sì. Archiviate tutte le accuse. Archiviate tutte le accuse, amico mio. Ma è bene, stato benissimo. Anche cacciato il famoso Bagnino fascista, quello che metteva i simboli. Ci hanno fatto una testa così tutta l'estate, il pericolo fascista. Cacciato dai gestori dello stabilimento, però. Cacciato dai gestori dello stabilimento. Ma che c'entra? Da qualcuno. Ma che c'entra? Gestore di me, tenendo indegno. Cacciato, poi la magistratura l'ha assolto e io sono molto contento, c'è un demente in più in giro, va benissimo, poco male, ce ne sono talmente tanti, chiamerà la radio, va bene, ma voglio dire Gianni non, Scarpa, non mi pare un problema. tutto archiviato benissimo, tiè. Ma non c'è da essere, c'è Fiano, da essere contenti dove che sei? C'è un... Fiano, ma dove sei? Ma non c'è Fiano, la legge Fiano, dove non sei? Non c'è la legge Fiano, infatti. Basta. Non c'è. Vabbè, un altro personaggio di oggi importante è Fausto Leali, signor Fausto Leali, mito assoluto. Purtroppo gli hanno rubato in casa, gli hanno portato via i dischi d'oro, gli hanno portato via un sacco di roba, anche di valore ovviamente, in un appartamento, e dice, sentite, gli americani sono più avanti di noi, possono sparare, invece in Italia rischi di finire sotto processo. Numero uno. D'altra parte, amico mio, c'è una cosa molto semplice che ti voglio dire. Uno dei ristoratori che abbiamo sentito recentemente, credo nell'Odigiano, che ha subito una rapina e ha ammazzato il ladro, purtroppo per pagarsi l'avvocato deve pubblicare, almeno così leggo da qualche parte, è costretto a pubblicare un libro di ricette, perché evidentemente non ha i soldi per pagarsi l'avvocato. Lo risarcirà. Siamo l'avvocato dovrebbe essere fornito direttamente dallo Stato. Non è che uno... C'era una legge depositata in Parlamento che proprio rivedeva il termine della legittima difesa e prevedeva proprio questo. Che noia! Però mi dispiace darti un dolore. Ma chi se ne frega delle leggi depositate? Nessuno modifica queste cose. Era la famosa legge che distingueva la notte dal giorno. giorno, ti ricordi che ci furono tante polemiche su quella famosa legge? Ma non è stata approvata perché non fanno un cazzo. Ecco, dentro quel pacchetto, a parte la follia del notte e giorno, c'era una norma che prevedeva che fosse lo Stato a risarcirti l'avvocato nel caso prevedeva. Non è stata votata, ecco, quella legge, perché hanno fatto opposizione i tuoi amici della Lega Nord per la fu indipendenza della Padania, incapaci di tutto in Parlamento. C'era una legge che dava una risposta proprio a questo. C'era. Non l'hanno votata, amico mio, l'aveva proposta il Partito Democratico. Sì, il Partito Democratico, un giorno, la notte e il giorno. Era uno dei firmatari, erano gli esponenti del Partito Democratico. Vabbè. Per cambiare la legge sulla legittima difesa. Allora, a proposito di fascisti, caro David, leggo da qualche parte, in Italia è pieno di fascisti. Non si sapeva non questa cosa qua. In realtà sono quattro gatti, quattro poveretti. Sei tu che li hai rintuzzati, rianimati e pescati con Luminol. Sei andato con Luminol, come si fa con i vermi, no? Con le cose, ti sbagli. Organismi minimali. Vai lì con la lente e il Luminol per rintracciare sti fascistelli. Poi questi si sentono un po' galvanizzati. Guarda, pensano che siamo nel ventennio. Chiamano Radio 24 scambiandola per Radio Balilla. E ecco fatta la frittata, sono 10-20 dementi in tutta Italia, saranno 1000 persone in tutta Italia. Guarda, sei tanto, secondo 1000 me ti, dementi. Secondo me ti sbagli, perché ho scoperto che secondo me sono molti di più. Allora, c'è un tizio, allora, per esempio, un signor nessuno, un giardiniere, vicino, giardiniere, credo, nel nord, non so dove. Udine, vicino Udine, un tale che si chiama Biasiato, cioè nome e cognome, che nel suo giardino c'ha un'effigie enorme del duce. Un'effigie enorme del duce. Può usarla per farci urinare il cane, ma va benissimo. Ma perché non per c'è urinare il cane? Non ho capito. Voglio dire, ma io la userei per quello, voglio dire, per non ho cani in questo momento. Se avessi un cane potrebbe essere molto utile questi simboli del fascismo per far comodamente urinare il cane. Senti cosa dice. Sì, prego, prego. A me mi ha insegnato che lui ha fatto grandissime cose, perché se andiamo a pensare adesso alle pensioni, le strade, chi le ha fatte? Anche sbagliato, perché si è alleato con gente sbagliata, per l'amor di Dio, non dico di no, però sinceramente lui ha fatto delle cose veramente, veramente fatte bene, se no nessuno partiva. Lei si reputa un fascista? Sì. E ne è orgoglioso di questo? Sì. E mi diceva prima che questo è una quasi, diciamo, un fatto di cuore, è così? Sì. Signor Biasiato. Tu, la cosa più incredibile. La cosa più incredibile, veramente, è da analisi quasi sociologica. Cioè, un tempo, una volta, uno non diceva sono fascista così apertamente. Oggi, se tu metti il microfono sotto. Da un certo punto di vista, e anche questo meglio. Questo è l'imbarbarimento dei tempi. Ma che meglio? Cioè, tu dici che io sono colpevole di questa cosa, cioè sono responsabile di questa cosa. Se sono saltati i freni inibitori, anche un senso civico di pudore, di dire delle porcherie. Oggi, effettivamente, si dicono delle porcherie, bruciare i rom, questo è un immondezzaio, indubbiamente. Una volta c'era un po' più il senso, cioè chi pensava, perché le persone che pensano queste schifezze ci sono sempre state, però almeno prima si vergognavano, ora no, è sdoganata la cattiva parola, è sdoganata la violenza verbale, speriamo non quella fisica, cioè siamo arrivati allo sdoganamento totale di questo terribile immondizia in cui la gente sguazza, nuota. Il vestito è pronto? Ma ci vorranno 20 giorni. Cosa 20 vuol dire? Giorni per fare un vestito? Cioè 20 giorni per fare un vestito? Sì, è vero, un vestito ci su sono milioni 20 di italiani che vanno dal sarto. Che no, hanno sarti, non ci sono milioni, non ci sono altri che non ti ci posso vanno. Assicurare, non ci farsi sono... fare un vestito dal sarto, per quanto mi arrivano continuamente i messaggi di minaccia per una cosa che è fatta con i miei soldi. Clamorosamente, l'hai resa clamorosamente una roba, come fosse una roba così strana. Cioè, voglio dire, uno ha fatto un vestito dal sarto, e allora dove? Per il battesimo di qualche. Sono. Chissà quanti saranno gli italiani che per il battesimo del figlio, il matrimonio del figlio, si faranno fare un vestito negli anni 50 Ma negli anni 50 io conosco un sacco di persone che si fanno normali, milioni, che si fanno fare allora, Parenzo, due punti. Milioni di italiani si fanno fare i vestiti dal sarto. Beh, se no non si capisce come è mai falso. In tutta Italia ci sono tante sartorie. Ma guarda, mica ci vado solo io, no? Solo a Napoli ce ne saranno 20-30. In tutta Italia è pieno di sartorie, di gente che si fa fare vestiti, una giacca, una roba dal sarto. Sembra una roba così inarrivabile. In realtà ti assicuro che lo è. Certo, costa più di un vestito confezionato fatto, come dire, in fabbrica. Pochissime persone. Ma non è vero, ma dipende dove vai. Ma non è vero, guarda che con 800 euro un vestito dal sarto. Un po' di messaggi che sono arrivati contro Parenzo. Però con 800 euro ti fanno un vestito dal sarto. Un po' di messaggi. Parenzo, che fa tanto il pauperista, il paladino delle cause dei poveri, degli immigrati, dei rom, e poi acquista un vestito in sartoria spendendo migliaia di euro. Ah, vabbè, ma vaffanculo, va. Comunque il vestito dal sarto napoletano Parenzo se lo può permettere, perché di stoffa insomma ce ne vuole poca, ecco. Io sono un giovane ragazzo di 26 anni e a chi mi chiede qual è la tua massima ambizione, io rispondo: fare il David Parenzo. Ho appena visto l'ennesima foto su Instagram, c'è il caminetto, a volte c'è il vino, stavolta c'è lui, elegantissimo, bellissimo, champagne, certamente servito alla giusta temperatura dalla servitù sul mare. Mamma mia Parenzo, che bella vita, bravo, insegna ai miserabili come si vive. Come diceva qualcuno, sono stato un uomo ricco e sono stato un uomo povero e non c'è nessuna nobiltà nella povertà. Miserabili. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Pronto, pronto, prima si parlava di Mussolini, ma molti non lo sanno, non sanno che Mussolini ha salvato l'Italia. E credono di parlare, parlano come tanti cretini. Dai, andiamo, papà. Cruciani, come godo, eri già lì tutto pronto con la storia del musulmani che si sposano le bambine, gli immigrati che vengono qua, ci rubano il lavoro, tutte le tue puttanate, e invece no, te lo sei preso nel culo, è tutto finto, una fake news, non c'è nessuna bambina che è andata in sposa al vecchio musulmano cattivo. Ma tu, siccome sei una merda, non hai coraggio di dire come stanno le cose, non hai coraggio di dire che è tutto finto, dici forse finto, forse non è vero, perché sei una merda, sei una merda. C'è tensione, tradimento. Meno male che ci sono gli archivi della radio, meno male che possiamo mandare in onda le registrazioni, amico mio. Questa testa di cazzo che ha parlato prima non ha capito assolutamente nulla. Sin dall'inizio abbiamo detto che la notizia era dubbia, soprattutto Parenzo, certamente. Ecco, sì, poi quando la cosa è più o meno, perché poi quelli, ripeto, del Gazzettino ancora non sono sicuri, quando la cosa si è scoperta totalmente falsa, abbiamo subito detto che era totalmente falsa. Per cui non mi rompere i coglioni, caro amico. Puoi continuare a mandare i tuoi messaggi, puoi continuare a intervenire, puoi continuare a dire tutto quello che ti pare. Te lo faremo dire, perché noi siamo liberi. Ospitiamo anche i nazisti, figuriamoci, se non ospitiamo te che sei un imbecille. È una cosa incredibile, veramente, anche direi indegna, sì. Ma cosa indegna, Taormina? Non ho ospitare i nazisti, hai ragione. No, ma che? Quando mai? Ma assolutamente sì, no. Terribile, quello no, è terribile. Ma va, libertà. Non libertà. Tutti hanno diritto di parola, secondo sì, me. Sì, secondo me sì. Secondo me sì. Scusa, non ho capito. Esiste. Tu non intervisteresti un assassino seriale? Sì, allora che cazzo vuoi? Perché non puoi invitare uno che ma dice di essere nazista? Assassino, e un allora, assassino appunto, lo intervisterei facendogli il culo, però. Ma diciamo, certo, perché noi nazisti risparmiamo qualcosa. Dicendo che è legittima la ma sua perché? Opinione. No, non ho capito perché. No, noi... perché spesso invece tu dici che è legittima l'opinione, ma io l'opinione dico... non è legittima. No, poterla dire, cioè, che c'entra? Poterla dire. Non esiste la cosa, il diritto all'odio non è un diritto. Assolutamente eh? Sì, come non c'è. No? Assolutamente no, sì. Da noi mi dispiace, non è possibile, assolutamente. No? Allora ragazzi, assolutamente. Suggerimenti per chi vuole andare in un bagno pubblico. e non vuole lasciare il bagno sporco di merda quando tu vai in un bagno pubblico e per cagare. Spero che la gente lo sappia. Io vado spesso, mi trovo nella situazione di andare in alcuni bagni pubblici o comunque in un bagno che non è il mio di casa, e non so perché ho la fissazione, l'ho detto ieri, di lasciare pulito, cioè di non lasciare le strisciate di merda. Meno male. Aspetta, insomma, mi suggerisce un ascoltatore che mi ha scritto una mail anche piuttosto dettagliata. Buongiorno, anche con una presentazione. Buongiorno, suggerisco che per evitare l'uso dello spazzolino per pulire la tazza del gabinetto dopo aver defecato, di rivestire internamente con la carta igienica la tazza. La massa fecale, cadendo sulla carta igienica, non verrà a contatto con la tazza, quindi sarà sufficiente tirare lo sciaccone del water. Cordiali saluti, Filippo. Amico Filippo, è vero, però adesso non può essere troppo complicato. Cioè, tu dovresti prendere la carta igienica, che spesso non c'è nei bagni pubblici. Uno sta là intorno, si guarda, non c'è manco la carta igienica, e sei costretto a uscire con il culo sporco. Sarà successo a molti di non trovare la carta igienica. Per cui tu dovresti, in teoria, perdere tempo nel rivestire addirittura. È più semplice, forse, prendere la carta igienica, tenersela in mano e usarla come protezione per prendere la paletta, no? Per prendere il... lo spazzolino, vai là e pulisci, e tanto è roba tua più o meno, poi pulisci anche roba degli altri, lo so. Cruciani, per cagare nei cessi pubblici bisogna essere degli eroi, e bisogna essere altrettanto eroi da non lasciarli sporchi. Hey! E per completare il discorso, caro David, il capo della Lega delle Marche, il capo della Lega nelle Marche, che si chiama Paolini, suggerisce alle società di trasporto locale, siccome ha visto delle immagini, gli hanno raccontato che in alcuni autobus locali ci sono più neri che italiani, cioè ci sono state delle situazioni in cui c'erano tre ragazzine, diciamo, bianche, chiamiamole così, e ne so, 10-15 neri. Allora lui dice... suggerisce alle società di trasporto locale di prendere esempio dall'Alabama, dal Mississippi, mamma mia, o dal Sudafrica degli anni 50. Cioè dire autobus riservati con i posti riservati a italiani, bianchi, sì, dice proprio così, bianchi, eccetera, eccetera. Naturalmente. Pietro da Bologna, vai Pietro, anzi Stefano da Lecco, Stefano. Oh. Sì, buonasera. Dimmi Stefano, dimmi. Come partito antisionizzazione... stiamo facendo una raccolta fondi per aiutare economicamente. Scusa, io non voglio ripetere sempre la stessa cosa, perché aspetta, perché mi arrivano sempre messaggi, non è vero che si sente male, eccetera. Allora, caro Stefano, non so chi... No, qui si sente male. Allora, mi apri per favore, cioè, bene il telefono, ti togli l'auricolare, le cuffie non la voglio più dire perché poi la gente mi prende in giro, cioè io me ne sbatto i coglioni. Eri con le cuffie o con l'auricolare, sì o no? No, veramente. Vabbè, ragazzi, io non lo so, che stai guidando, non lo so, fermati, fai qualcosa, altrimenti non ti sentiamo la radio, bisogna sentirla, amico mio. Altrimenti che cazzo facciamo? Dai, Stefano, dimmi. Sì, come partito anti-islamizzazione. Niente, non c'è niente da fare, ti richiamiamo, Pietro, dai, Pietro da Bologna, lo richiamiamo, è il partito anti-islamizzazione, lo chiameremo dopo, è credo il segretario del partito anti-islamizzazione. Ma cos'è il partito? Non esiste Pietro, neanche. Vai, Pietro, dimmi. Non esiste la telefonata perché non esiste il partito. Dimmi, Pietro, dimmi. Cruciani, per ribadirti sempre che sei un mentecatto, sì, comunque. E tu un imbecille, ecco, sicuramente. Io vorrei chiederti, siccome dici che uno può essere nazista o fascista e propagandare e dire la sua, se qualcuno dicesse sono dell'ISIS o dell'Al-Qaeda, esatto, e volesse dire... la sua, esatto, è un po' diverso, amico mio. No, è uguale, a parte, bravo, che lo ospiterei sicuramente. È la stessa cosa. No, è diverso. Perché se tu inciti alla violenza è una cosa, e l'ISIS commette violenza. Certo, il fascismo non, ma sì, ma cosa c'entra? Se uno dice sono fascista, chi se ne frega? Se uno dice sono dell'ISIS e fanno bene quelli dell'ISIS a bruciare le case, a bruciare i cristiani, a sgozzare la gente, è un po' diverso. Ma sì, ma è passato, quello è presente. Non è passato, cretino, oggi. Cretino, ha ragione. Se passare 20 anni, uno dell'ISIS può riproporre. Sei evidentemente un poveraccio. Ha ragione. Ma io, siccome ha ragione. Aspetta, nonostante il fatto che tu sia un poveraccio, ed evidentemente sei un poveraccio, no, ma ha detto una cosa vera. No, però. ma che vera, ma non vero, dite cazzate. State paragonando due cose completamente diverse. Certo, il fascismo è stato violenza. Uno che oggi si dice fascista vuol dire che oggi è un violento. Di morti. Ragazzi, sono, non sto dicendo che sono d'accordo. È esattamente così, ma non c'entra niente così. Ma Sara, voi siete completamente fuori di testa. Fermo, Pietro, ti richiamo. Tanto sei un cretino, sei cretino rimani. Mentecatto sei, mentecatto me l'hai detto tu. Imbecille sei, imbecille rimani. Però ti richiamo. Niente, mi feci fa un po' fermo da era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans. David sta andando a trans. Non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans. David sta andando a trans. David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con F-ball. Ah, e vabbè, vanno a trans. Se si divertono a prenderlo a quel posto, che io. E comunque, viva il Pio! Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. E chi lo sa e non ci crede. Oh! Giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Beh, poi tra le altre cose, cavalcando il populismo più sfrenato, ti ricordo che coi soldi che hai speso col vestito potevi tranquillamente mantenerci Zabaeta per 3 mesi 4, mamma mia, che situazione. Parenzo, devi solo vergognarti. Spendi migliaia di euro per quel cazzo di vestito e non hai ancora assunto Sabaeta. Vergognati. Basta questa Fiorella, basta questi fascistelli nazisti. Ritorniamo al punto principale di tutto. Parenzo, assumi la Beh, questo mi sembra fondamentale, un discorso ancora presente nei nostri cuori e nelle nostre menti, un discorso di grandissima attualità. Sabaeta va non solo Sabaeta. Salvata, non solo salvata dal delirio di quel campo rom di Castelromano, dalle barbarie, dalle uccisioni, dai fumi tossici, va portata di peso a casa Parenzo. In realtà oggi non, impossibile, non si sa dov'è la casa, questo è anche appunto un problema. Tra l'altro, primo, secondo, impossibile, perché io non è che sono un'azienda che posso assumere le persone. Scusa, così ti sei potuto permettere un vestito a Napoli? A Napoli, quello è 6 mesi di stipendio a Sabaeta. Ma il vestito a Napoli sono 6 mesi di stipendio a Sabaeta per venire due volte a settimana a fare un po' di mestieri, come si dice in gergo, a casa tua. Ma io non sono la Caritas, c'è un errore di fondo proprio. Però sei de sinistra. Ma allora, è un ragionamento incredibile questo. Essendo per cui, de sinistra, uno, de sinistra. Ma no, poi di sinistra, di destra, dicendo se uno la pensa in un certo modo, sì, deve, devi farti carico di alcune cose. Una vita certo, che è coerente con quello che dico e che per faccio esempio, non mi sembra di essere un criminale se mi sono fatto esempio, fare un vestitino da per esempio fatto, il signor Strada a modo suo è coerente, va in giro con dei vestiti normalissimi, io non, ho, non spende migliaia di euro per farsi fare un vestito, ma chi è che spende migliaia di euro? Vive ma è un discorso in maniera come dire quasi da monaco, è un discorso, ma io vivo in modo assolutamente vecchio, normale però, proporzionale a quello che posso, non mi devo in proporzione ti a quello piace, che posso, diciamo, ti piace moltissimo il lusso ti piace, ma quale moltissimo lusso? Ma quale lusso? Ti piace stare bene come qualunque persona normale del mondo, il ma lusso. Non è il lusso, cos'è il lusso? Fare qualche viaggio ogni tanto è un lusso. Oh, intanto sì, fermi se tutti, se uno può farlo certo che fermi è un lusso. Tutti Razzi, mi ricandido. Antonio Razzi, mi ricandido, ma lo sapevamo già. Io sì, almeno mi sento in forma, mi sento giovane proprio di lavorare ancora per il bene degli italiani. L'Abbonino, l'Abbonino. Adesso è un bel sondaggio questo qua. Chi preferite in Parlamento, Razzi o l'Abbonino? Beh, voglio dire, ma non c'è. Sono, è come paragonare, ma sono due Razzi o l'Abbonino? Ma ragazzi, l'Abbonino va tutta la vita. Ma cosa ha fatto di più per l'Italia e per l'Europa? Io ho una risposta, ho una risposta subito, ma chiara, sì, evidente, perché... lampante. Antonio Razzi, Antonio, tra Razzi e l'Abbonino e in ma Parlamento. Cosa ha fatto di concreto? Antonio Razzi, comunque sentiamo. Cosa ha fatto di concreto? Vi lancio Antonio subito Razzi, questa perla. Che battaglie civili ha ma fatto per il progresso della società? Allora, nessuna, l'Abbonino nessuna. Dice che bisogna. Si è pagato il mutuo, ecco. Sì, si è pagato il mutuo della casa, ma questo è un problema suo, no? Non della società. Allora, a parte che stai dicendo che Razzi ha fatto politica solamente per farsi pagare il mutuo, ma l'ha detto lui. Ma no, l'ha detto lui tranquillamente. Bonino, integrare, lui. integrare 500.000 clandestini, ragazzi, si chiama la follia. Sì, integrare 500.000 integrare vuol dire creare dei posti, cioè, di non lavoro, cacciarli, integrarli. Non cacciare 500.000 ma certo clandestini. Che no, integrarli, ma certo che no. Integrarli. Dargli un permesso, dai, a termine, dai, trovargli un ragazzi. Lavoro, quei famosi lavori che gli italiani non fanno, specie nell'agricoltura. Integrarli, vai, sentiamo. Sentiamo. Crea economia, integrarli, sì, crea ricchezza, integrarli, crea nuove figure professionali, sì, peraltro. Nuove figure professionali. Ma certo. Tu sembra di sentire un politico quando parli tu. Un non politico. È un politico, Bonino, c'è un pragmatismo Bonino. Assoluto. Bonino. E per quanto riguarda il volano interno, l'integrazione dei 500.000 o più clandestini è una necessità di ordine, di sicurezza, è una necessità economica. Ed è una necessità. Sarebbero da cacciare i clandestini. Certo, ha ragione. I clandestini vanno cacciati. Vanno, un paese normale, non bisogna essere razzisti, fascisti e di destra per dirlo. No, ma non è un questione, paese è normale, i clandestini li caccia. Ma è una stupidaggine dire cacciare i clandestini. Li caccia, se tu, e fa se entrare tu li integri, e fa entrare solamente quelli di cui abbiamo bisogno. Gli altri vanno cacciati, come ogni paese fa, normale. Solo noi facciamo restare lì e gente che non si sa bene quello, appunto, che fa. Ma dobbiamo, dai, farli, allora, restare, Pietro, dargli vai. Un permesso, ma un guarda, permesso di soggiorno di lungo tempo, sì, e trovare un lavoro. Trovare un lavoro, sì. Sentendoti, sì, riconfermo che sei un mentecato. Ma ridai, questo è il cretino di prima. Sì, no, Pietro, perché, vai. No, davvero, sei una cosa incredibile. Vai, cretino, che perché cosa dovevi dire? Quando tu parli di cacciare i clandestini, ma cacciarli, questi clandestini, sì, cacciarli, da dove vengono? Cacciarli. Sono quei paesi che le nostre multinazionali, ma non dire cazzate, i nostri governi vanno a bombardare, quelli non c'entrano, a raffinare le ma loro basta con queste stronzate, a portare bambini là, ma basta, okay? Con queste storie ridicole, no, dai. Quello. Poi vabbè. Dopo dimmi, poi rimane il fascismo, no? Che come dire, fascismo un non è un pericolo, non è un pericolo, sono quattro. Come Di Battista, come Di Battista, sì, come Di Battista, sì. Qual è il problema? Ti dice che il pericolo è il capitalismo. No, io quello lo penso, per cui. È quello ha detto Di Battista, il vero pericolo è il capitalismo. Ha detto anche che il fascismo non è un pericolo, il capitalismo sì. Come l'ISIS. Chi? Non ho capito. Mussolini, quando io ogni tanto vado, sì, certo, il fascismo in quante tali in quanto l'immagine di Mussolini appeso a testa in giù. Con la testa fracassata, e che fai? A piazzare Loreto dalla gente italiana, cioè, che godi, si è liberato dal tu fascismo. godi per questa cosa qua, cioè godi a vedere quell'immagine, è come Mussolini deve essere, cioè tu vai su internet giù, a vedere appeso. Quell'immagine e godi assolutamente. Io lo metto nei siti di Forza Nuova e di cioè vai a rompere i coglioni a quelli là, assolutamente qualcuno di Ostia di Casa Paolo Forza Nova, vabbè, quello che è, mi ha in qualche maniera bloccato, beh, chi se ne frega. Rimane. Che il fascismo deve essere trattato così, vabbè, perché deve essere ricordato che se sono vivi, dei criminali che non hanno diritto di parola. Ma come chi te l'ha detto? Dei... Ma sei un pazzo, Stefano D'Alecco. Stefano D'Alecco ha fatto la fine di Saddam Hussein. È una ha fatto puttanata. La fine di Saddam Hussein. Stefano D'Alecco, anche Saddam Hussein lo hanno deposto, sì, in questo modo. Dimmi, Stefano, dimmi. Come partito anti-islamizzazione stiamo, sì, raccogliendo dei fondi. Che non esiste. No, esiste. Come non esiste? Secondo Parenzo non esiste nemmeno i terroristi islamici, per cui. Ma dove? No, certo che esistono, e come, sono pericolosissimi i terroristi islamici, certo che esistono. Allora, esistono, e come, purtroppo. Parenzo. Allora, il sì, partito ma non esiste anti... un partito, cosa come fa? No, esiste, si chiama PAI, il partito anti-islamizzazione, è quello ma, di Melucci. Sì, ma c'è anche il partito del Sarto, c'è il partito del Bubù, c'è il partito di Topolino, dei Puffi, di Cristina D'Avena, Olli e Benji, ci può essere qualunque partito, qualunque, partito dei Puffi. Dove vai tu a farti fare i vestiti? Il partito di Gargamella ci può essere, guarda un po', dai, su, il partito anti-islamizzazione. Ma questo ha fatto ma cosa il partito anti-islamizzazione. Va bene, cioè... si presentasse alle elezioni, benissimo, abbiamo anche il partito Stefano, anti-islamizzazione. Un attimo, raccogliendo le firme, raccoglientele, grande. Allora, benissimo. Stefano, fermo un attimo, che ti voglio chiedere due cose. Di questo partito? Chi è il leader di questo partito? Meluzzi, uno dei leader è Meluzzi. Fermo un attimo. Meluzzi, Meluzzi, quello lo sai, quello che era... Alessandro Meluzzi. Alessandro Meluzzi, fermo. Là. Pure quello fa adesso. Lasciati un parenzo e alla defecarsi io non ci penso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. Guarda, io ti denuncio, Quando vado a fare la spesa lascio sempre la macchina il più lontano possibile dal deposito Carrelli. E puntualmente ogni volta che esco fuori dal negozio c'è il culo nero che si offre di portare il carrello per poi prendersi i 2 euro che ci sono dentro. Ok, vieni, portami pure il carrello, scaricami la spesa in macchina, scaricami le casse d'acqua. Grazie fratello culo nero, vai, tieni pure il carrello. Ma lui non lo sa che dentro non ci sono i 2 euro, ma ci ho messo la rondella. Cioè, questo cosa ha messo al posto dei 2 euro lì, Parenzo? Cosa ha messo? Una rondella, mi pare di aver capito. Cioè, per, una ferire, rondella. Per ferire l'immigrato che poi va a prendere. Sì, se, è vero, è, se, la, se è vero, è un criminale. Sì, il così, fatto per di prenderlo pure... per il culo. Per prenderlo per il sì, culo. No, sì. Ma il criminale, non solo averlo fatto, ovviamente, l'atto in sé, ma averlo pure con orgoglio rivendicato alla radio, come, capito? Con questa spudoratezza vergognosa. Cioè, non solo ha fatto del male. Ma rivendica di aver fatto del male e pensa anche di aver fatto bene, non la considera una bravata, no? Cioè, questo se è vero è agghiacciante, se sono solo parole. Giustamente, flatulenza pura. Un nostro amico scrive: perché quando parliamo di integrazione di clandestini dobbiamo sempre pensare che debbano fare i lavori che noi italiani non vogliamo fare più, come dice Parenzo? La vera integrazione è dargli ciò che a noi non va magari. Di fare. No, amico mio. Certo che no, ma nelle società avanzate nelle società purtroppo avanzate. Succede questa roba qui, cioè spesso gli immigrati fanno quei lavori che noi italiani non vogliamo fare e quindi servono, ma li troviamo anche in posti, in America li troviamo in posti di potere per fortuna. Vabbè. Silicon Valley è nata grazie all'immigrazione. Mi dite per favore da dove vengono i cori di questa chiesa, che cori che girano molto su internet oggi? Coro donne chiese, si vede, si sente, Gesù è qui presente. Chi non salta non ci crede, fatemi risentire sti cori. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. Si vede, si sente, Gesù è qui presente. E chi non salta e non ci crede. E chi non salta non ci crede. Allora, eravamo con Stefano da Lecco, partito anti-islamizzazione. Partito anti-islamizzazione. Caro Stefano, devo dirti subito che c'è una persona, l'amico Donato da Varese, il quale vorrebbe iscriversi al tuo movimento, vorrebbe addirittura candidarsi. Le porte sono aperte per lui? No, ma non sto scherzando. Vi fa fare bella figura, Vi fa fare bella figura. Immagino. Il partito prevede da statuto che è contro il nazifascismo, contro il comunismo e contro il razzismo. Quindi 2 su 3 credo che Donato da Varese non possa entrare. Questo è già un passo in avanti. Amico mio, questo è già un passo. Che è l'ABC. cioè dovrebbe essere, adesso io mi stupisco, ma dovrebbe essere che cosa, che non si è sentito un cazzo, scusa, se spiega, dovrebbe che... essere la BC di qualunque movimento, no? Dovrebbe essere la BC, essere contro il nazifascismo, cioè, ovviamente. Mi stai bocciando l'adesione di Donato al partito anti-islamizzazione, questa è una cosa gravissima, però è una cosa molto... mi spiace per Donato, ma se rivede le sue posizioni su certe cose, ogni persona... Ma non è mica razzista, Non è mica razzista. No? Nella vostra... ascoltando le telefonate, un pochino. Bravo, meno male, Vabbè, comunque andiamo al di là della questione Donato, della decisione Donato. Io non ho capito perché c'è bisogno del partito anti-islamizzazione. Innanzitutto volete fare una colletta per che cosa? Non ho capito, Stefano. Noi stiamo, partirà domani la raccolta fondi per il poliziotto che ha definito quell'immigrato con la bicicletta risorsa boldiniana, che è stato sospeso dal servizio a metà stipendio. Ottimo, Parenzo, ottimo. Lui ha 3 figli e chiaramente restando con praticamente un terzo dello stipendio, noi abbiamo deciso di far partire questa, capito, Parenzo? Questa capito? Campagna tra i nostri 14.000 iscritti per aiutarlo. Non entriamo nel merito della cosa. Beh, no, entrate, però, perché se fate la raccolta di fondi lo appoggiate. Pensate che avere detto risorse della Boldrini, merda, eccetera, sia comunque un qualcosa che non va sanzionato, perché altrimenti che cazzo la fate a fare la raccolta di fondi? Mi dispiace che non... Cruciani, perché quando un poliziotto fa il saluto, si mette su attenti per un pregiudicato come Verdini, Parenzo non inveisce, non dice qualcosa? Dovremmo sospendere anche quel poliziotto? Perché il ragionamento può sembrare intelligente, in realtà purtroppo lo è, perché l'onorevole Verdini fino a quando è... solo tu. No, glielo spiego perché. Perché l'onorevole Verdini, fino a quando continua a rimanere in carica, quindi a essere... Ma cosa c'entra? Lui dice: se si mettono sull'attenti davanti a Verdini, che comunque ha una condanna definitiva. A parte che non lo so se si mettono sull'attenti davanti a Verdini, ma qualora fosse, essendo lui comunque un rappresentante del popolo, perché non è decaduto dalla carica, il poliziotto, rispettando il principio per cui quello è un deputato. Del popolo, il poliziotto che salva la ma vita lasci stare, uno, le sto spiegando nel merito. Certo, ma le sto spiegando nel merito, perché quella divisa rappresenta le istituzioni, non un parere personale. Io posso condividere il suo parere su Verdini. Mi scusi, lei non ha capito, purtroppo. Parenzo era una merda perché andava in autostrada con la bicicletta. Ecco, se lo avesse detto con la divisa, francamente mi sarei un po' preoccupato, perché quell'uomo con la divisa rappresenta lo Stato. Ma che preoccupato, perché ha detto in un video privato successivamente messo online. Nello Stato di diritto. Ma nessuno dice che non deve essere sanzionato. Che dai. Un uomo è allora siamo ma d'accordo. Sì, ma se non deve in questo modo. Sanzionato. Ma sì, un ma piccolo rimprovero verbale. Lo decide la polizia. Un rimprovero verbale. Decide la polizia per salvaguardare la propria autonomia e identità. Siccome è stata messa in mezzo la Boldrini, quello è il punto fondamentale. Esatto. Io non ho capito, ma l'Islam, Stefano, l'Islam per voi che cos'è? Il male assoluto? No. Ma come no? È il male, come no? Io partito anti-islamizzazione, certo. Amico mio, distinguiamo tra la religione. Sì, ma c'è un pericolo dell'invasione certo. islamica in Italia? Siamo al 3%, guarda la situazione in cui siamo. Arriveremo ad avere percentuali maggiori e la situazione sarà sempre peggio. Non esiste un Islam moderato. Scusi. Non esiste l'Islam moderato, perché non esiste? Ma ora in che situazione siamo? Non riesco a capire. Cioè, i moderati sono ora? Come quelli che appoggiavano dall'esterno le Brigate Rosse durante il terrorismo? Esattamente. Quando i comunisti, i sindacati, i lavoratori, la politica hanno detto non sono compagni che sbagliano, sono terroristi, lo Stato è stato in grado di distruggere le Brigate Rosse. Cioè, l'Islam è un pericolo? L'Islam è un pericolo nella sua condizione attuale. Facciamo un paragone che può piacere a Parenzo con la Germania hitleriana. Cioè? La Germania hitleriana c'erano i nazisti estremisti che rastrellavano gli ebrei, li portavano ai campi di sterminio e li uccidevano. E quelli che e non dicevano 40 niente. Milioni, sì. 40 milioni di nazisti moderati che non facevano nulla. Basta vedere. Beh, tu stai paragonando gli islamici di oggi al pericolo di Hitler, praticamente. Sì. Cioè basta per te vedere, gli islamici basta, di oggi il problema è l'Islam politico, non l'islamico in quanto tale, non so se mi riesco a capire. 3 mesi dopo gli attentati di Parigi a Molenbeek usciva a fare la spesa e non è stato denunciato. Ma per scusi, 3 mesi. Ma come fa lei ad esempio a dire che Khalid Chauki è un potenziale terrorista? No, ma non di ha detto, sta non parlando? Ha detto questo, no, ha detto, no, ha detto se lei bravo, dice grazie, che tutti gli islamici se lei dice che tutti gli islamici sono dei potenziali terroristi, commette un clamoroso errore. Vediamo. Ecco, allora se fosse vero il suo ragionamento, c'è un collaborazionista, è un collaborazionista degli estremisti, Chauki? Chauchi risponde come presidente della moschea di Roma all'Arabia Saudita che finanzia assieme al Marocco la moschea di Roma, ma male o risponde al Parlamento italiano? Ma scusi, ma meno male che ci sono islamici come Chauchi. Ma no, è importante dire che meno male che ci sono islamici moderati e parlamentari come Khalid Chauchi che conoscono la democrazia. Risponde, e oggi è entrato a dirigere la moschea di Roma. Risponde, ma chi risponde all'Italia? È un deputato italiano. 500.000 euro l'anno in una moschea, ma che scusi, è costata 50 ma lei, miliardi. Ma che chi, ma lei deve, ma è una garanzia, ma che quella è una carica istituzionale che riguarda la moschea, ma che c'entra? Ciao Stefano, ciao Stefano, ciao ciao ciao ciao. Massimo da Treviso, vai, intanto, intanto ti dico una cosa, caro David, ti dico una cosa. Allora, Alberto Biasiato, classe 67, di professione giardiniera, ha voluto omaggiare i suoi ideali con la testa del duce sopra il suo cancello e anche con il fascio Littorio. Ognuno ha le sue idee, io ho le mie e le ho volute esprimere in questo modo e ne sono felice. Sono convinto che ai nostri tempi, che ai tempi nostri ci vorrebbero più severità, più ordine, più regole chiare e certe, così come sono convinto che servirebbe un ritorno della dittatura per risistemare un po' di cose. Massimo, vai, Massimo. Beh. È folklore, dai, è folklore puro. Pronto? Vai. Dimmi, è dimmi. Tutto folklore. Anche negli anni 30 dicevano che era folklore. Buonasera a comunque tutti. Io sono deluso perché il partito antislamico, il segretario non vuole Donato, qui bisogna fare una ribellione, bisogna interpellare Meluzzi. No, Donato è un fascista, per non forza. È un fascista, non è un fascista, non è un fascista. Massimo, dimmi. Dice delle cose terribili, razziste, ma insomma. Scusa, Parento. Intanto bellissimo scusa. Quello che tu hai appena letto, lo condivido alla grande. Cioè, io giro sei, spesso per il mio lavoro, io giro spesso per il mio lavoro con in aziende di imprenditori e tutti ne hanno le palle piene. Cioè, secondo te ci vorrebbe ritorno alla dittatura? Non ho capito. Assolutamente sì. E anzi, così chi è che Parento, mi chiama? Io aspetta un attimo, aspetta, io non capisco chi è che mi chiama, aspetta. Pronto? Pronto, signor Giuseppe? Sì, chi è? Sì, salve, sono Giovanni, chiamo dall'Italia per conto di Eni, Luce e Gas. Ne conosce la nostra azienda? Sì, conosco, mi dica. La stavo contattando perché siamo in campagna promozionale. Perché non hai pagato la bolletta. Le tariffe molto vantaggiose. Sì, ma scusi, innovativi. Scusi, sono al cesso in questo momento, che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora, faccio una cosa, si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come, okay. Non ho capito? Ha ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso, che cazzo devo fare? C'ha ragione però. Cioè ragazzi, questo qua è uno dell'Enel, Enel di merda. Ma è un po' dell'Eni, no, Eni. Scusa, Eni, no, Eni ma di quello merda. È un lavoratore, perché l'hai preso in giro, poveretto? Quello stava lavorando, ti stava anche ma mi stanno rompendo i coglioni, ogni volta mi chiamano. Basta, ma chi cazzo gli ha dato il numero di telefono? È un lavoratore, basta. Ho detto che stavo al cesso, che devo fare? Non posso dire che stavo al cesso. Giustamente ti ha detto, allora mettiti dentro e tira lo sciacquone, ma vaffanculo. Ha fatto benissimo, benissimo ha fatto, meno male, ha reagito. Senti, amici dell'Eni, mi cacciate questo qua, mi cacciate. Questo telefono deve essere cacciato. Deve essere cacciato. Sei tu che sei stato maleducato con quel lavoratore. Sei tu che sei stato maleducato, no, scherzo, con quel lavoratore. Non deve essere cacciato. Io sono stato maleducato. Facendo, a me mi rompo i coglioni lavoro, alle 19.45. Pagato. Cazzo, ma che ne sa lui che sei alla radio? Scusami, poverino. Anzi, dimmi, Massimo, dimmi. Allora, ti stavo dicendo questo. Io per il mio lavoro giro tantissime aziende, imprenditori che ormai ne hanno le palle piene. Dunque, tu ti dichiari dichiaratamente fascista. Aspetta un attimo, Massimo, resta lì perché devo chiamare una persona, Fausto Leale, altrimenti mi sfugge. Fausto Leale oggi rapina, anzi ieri notte o l'altro giorno, non mi ricordo, rapina dentro casa sua e dice dobbiamo fare come gli americani. Chiamiamolo, ragazzi, se no c'ho appuntamento adesso, se no mi sfugge, vai. Prego. Fausto? Sì. Sono Giuseppe Cruciani, ciao. Uy, ciao. Ti disturbo? No, caro, dimmi. So che sei molto arrabbiato, ovviamente incazzato come una bestia, perché che ti hanno rubato? Tutto praticamente, quello che da rubare in mamma casa. Intanto, non so se hai visto le fotografie su Facebook, sì. C'è la casa tutta sotto sopra, proprio tutto per terra, i cassetti, i vetri, perché ha rubato i dischi d'oro. Mamma tutto mia. Tutto quello che era, diciamo, legato alla mia carriera. E certo. Di premi, eccetera, così, le ha portate via tutto, perché sai, tutte le cose che luccicavano le ha portate via rompendo. A parte gli affetti, naturalmente, e le cose che non potrai più ricomprare, non potrai più riavere, a meno che non le ritrovano. Che danno ti hanno fatto? Hanno rubato tutti i gioielli il che avevamo in casa, mia moglie, che ne so, 200.000 euro, 400.000, come no, si può? No, siamo sui 100.000, circa sui 100.000 euro circa. Però poi ci sono tutte le cose tue della tua carriera, questo è... quelle lì valgono molto di più, ma no, non si possono quantificare, diciamo. No, no, certo, certo. Ma senti, ma non c'era nessuno in casa, naturalmente? No, non c'era nessuno, perché io ero andato via alle 3 del pomeriggio con mia moglie, sì, per andare a togliermi i punti che mi sono appena stato operato 25 giorni, sì, fa. Torniamo alle 7:30 e c'è la signora giù che abita sul pian terreno, e così, Fausto, ho visto uno scendere dal balcone di casa tua, eccetera, e scappare, non ho fatto in tempo, ho chiamato i carabinieri. Infatti, quando siamo arrivati alle 7:30, i carabinieri erano già lì. Poi, quando siamo entrati noi, che ci hanno aperto i vigili, sì, sono entrati e abbiamo visto la casa tutta sotto sopra tutto. E la prima cosa che hai pensato qual è stata? La prima reazione che hai avuto di fronte a come era ridotta la tua casa? Ho avuto un'amarezza, una cosa addosso, per dire, ma cavolo, uno entra in casa tua e può farti queste robe qua. Senti, ma ho letto 4 uomini slavi, come fai a saperlo? Perché la signora sotto, quando ha visto l'ultimo che è arrivato, che era a 5 metri di distanza, che lei era, sì, uscita per fare la pipì al cane, ha visto questo qua che veniva giù e parlava urlando agli altri suoi colleghi, sì, che erano fuori, che lo aspettavano con la macchina, sì, e quindi ha capito che erano dei... Che erano, sì, d'altra parte questo tipo di rapine nelle ville, in, sì, Brianza, ma non solo, sì, in Brianza, le fanno soprattutto, diciamo, slavi. Ma tu, dimmi la verità, se avessi avuto un'arma e ti fossi trovato di fronte a questi ladri, che cosa avresti fatto? Se fossi stato in casa con l'arma, sì, è chiaro che se ho l'arma in mano reagisco, sparo. Cioè, spari? Certo. Cioè, tu li capisci quelli che sparano anche addosso alle persone, o no? Sì, capisco. Sparare alle spalle è sbagliato, secondo me, perché insomma al limite sta andando via uno. Meno male. Se non ti ha fatto del male prima. Perché no, però io... come fai a sapere? Cioè, se incontri delle persone dentro casa, come fai a sapere che non ti possono fare del male? Cioè, chi spara? Certo, no, certo. E quindi la reazione è quella di sparare per primo, naturalmente. Cioè, a te piace l'America, per esempio, dove ovviamente in alcuni stati, in molti stati, si può sparare tranquillamente senza avere problemi di natura giudiziaria, poi. Ma devo dire che in America c'è un rispetto per la privacy, che tu non puoi entrare in casa mia. Cioè, tu, già il fatto che tu sei entrato in casa mia, esatto, io posso reagire. Leale. No, dico, anche qui c'è ovviamente, però tu dici qui si passano dei guai poi giudiziari, no? Minchia. In Italia ci vuole una legge diversa sulla legittima difesa, cioè spesso uno poi passa dei guai giudiziari pazzeschi. No, assolutamente ci vuole una legge molto più precisa che possa difenderci, noi che siamo oltraggiati da chi ti colpisce. Cioè, io oggi ho letto una cosa incredibile, cioè te lo dico, Fausto, so che sei stato colpito dalla tua cosa, però c'è stato un signore che ha ammazzato un ristoratore nell'Odigiano, che ha ammazzato un ladro che è entrato e che adesso per pagarsi l'avvocato è sotto processo, è stato anche rinviato a giudizio e sta facendo un libro di ricette per vendere questo libro di ricette, perché non ha i soldi per pagare l'avvocato. Tu capisci che in Italia spesso se uno spara dentro la propria abitazione, all'interno della sua proprietà, passa dei guai giudiziari. Cioè, questa cosa ti fa incazzare o no? Moltissimo, non poco, moltissimo. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Uno deve difendersi. A casa sua, tu sei entrato a casa mia, non so che cosa mi vuoi fare tu. E non posso aspettare che prima tu mi massacri di botte o mi uccidi prima. Per cui ci deve essere più libertà di sparare in Italia. Secondo me in casa tua, sì. Sì, sì, no, ma in casa, io dico, all'interno di una proprietà, o casa, proprietà, certo, che sia, ristorante, certo, questa cosa qui. Certo, certo, certo. E secondo te, oggi la giustizia italiana protegge più i ladri o le vittime? Protegge più i ladri, sicuramente. Fai un appello, Fausto, per almeno per la restituzione delle cose, che tanto questi non potranno vendere, perché le cose tue, che cosa c'è, diciamo, che riguarda la tua carriera? Un disco d'oro? Ma, no, i dischi d'oro e tutti gli altri premi che hanno preso, che significavano, sì, un po', beh, quelli sicuramente non credo che potranno fare granché, perché i dischi sono, voglio dire, un paio erano d'oro vero, quelli di Achille, di Angeli Negri. poi gli altri sono laccati, sono allora amici poco... ladri, amici no ma insomma ladri slavi, se ascoltate la Zanzara e avete rubato a casa di Fausto Leali, e tanto non ci fate un cazzo, lasciateli da qualche parte, che c'era 3 dischi d'oro, dei premi alla carriera, sì, se li ricordo... premi alla carriera, ma voglio dire non era tutto oro, ma quelli sono tutti rotti e tutti portati via, perché così nella fretta loro sono stati lì a guardare, c'era una parete tutta di queste cose che ricordavano la mia carriera. Lasciateli da qualche parte, tanto non ci fate un cazzo. Su, senti una cosa, ma ti comprerai un'arma adesso? No, se la legge italiana è quella lì non mi conviene. Perché l'istinto adesso sarebbe quello di comprarsi un'arma? Sì, ma io ho avuto una villa, prima avevo 6 fucili e 2 pistole, una lo tenevo. Tenevano 357 sul comodino, figurati. E adesso invece perché non ce l'hai più? Adesso non ce l'ho più perché quando ho cambiato casa, vivo in un appartamento, non è mai successo niente, è una zona tranquilla e non ho messo neanche l'allarme. Adesso chiaramente metto l'allarme e faccio tutte le cose. Però la notizia che io voglio dare ai ladri, se avete anche dei colleghi, mi avete portato via tutto, io non comprerò più un oggetto prezioso, e quindi se mi guadagno un altro disco d'oro è chiaro che me lo metto in casa, naturalmente, però sarà non più difficile. Non comprerai nulla di prezioso, nessun orologio, cioè, dunque non mi dovete dire niente. Va bene, ciao Fausto, ciao te, grazie. Ciao, ci vediamo. Hey! Hey! Italia! Hey! Hai capito a me, dai? Italia! Hai capito a me, dai? Italia! Hai capito a me, dai? Colato, Italia, forza, colato. Italia, svegliati. Hai capito a me, dai? Italia, Italia, no. Mamma mia, bocca giù da bocca, miseria. Oh, svegliati, ragazzi, Italia, sveglia, bocca puttana. Ci vediamo. Oh, ciao. Cosa sta dicendo quel mostro? La Zanzara. Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questi da un'Africa immensa hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non possa, hanno cagato figli, li stanno portando qui. Li stanno portando qui. Io questi negri li faccio sparire. Tu sei la vergogna d'Italia, tu sei una vergogna, sei bastardo che sei altro. No vabbè, ma ragazzi, ma questa qui che dice che il prete contro la Bonino ha ragione perché la Bonino è responsabile di milioni di aborti subiti, ma vaffanculo, è un diritto delle donne poter abortire, che se ne vada a cagare lei e quel prete là del cazzo, vaffanculo, imbecilli. Io sto con Donato, non toccate Donato. Renzo, alla fine ha ragione Don Biancalani, ci vogliono gli immigrati, perché sennò non si trova più erba, capito? Sweet as the punch. Comunque, David, la questione di Fausto Leali è molto semplice. Tu sei stato abbastanza molto assente durante la l'intervista. No, ma io stavi l'ho seguito, quasi... mi sembra un dramma quello che lui ha subito. Sì, è un dramma perché quando ti entrano in casa... No, ma può sembrare scontato. È ovvio, quando ti entrano in casa e ti portano via tutto, anche se non ti fanno male, è un dramma assoluto, una tragedia incredibile. Ma è evidente incredibile. Che tu, quando sei là, devi poter sparare. Nessuno lo mette in dubbio. Ma tu non hai capito, nessuno lo sta mettendo mai in dubbio questa cosa qua. No, non è in dubbio. Tu hai sempre... sempre si può detto, fare. Tu hai sempre si detto. Può, io non lo farei, tant'è che non ho l'arma in casa. Tu neanche hai l'arma in casa. Scusa. Quindi siamo due persone. Siamo due persone in questo momento che non hanno l'arma in casa. Ho ricordato. Tu istighi a sparare, però no, non hai non l'arma, istigo. Guarda io... caso, no? E che vuoi però dire? Non hai l'arma, che neanche dire? Tu. Che vuoi dire? Ma voglio dire che è facile blaterale dire sparare, sparare, sparare. Io non ho sono detto in sparare, tanti, sparare, per fortuna. Sparare. Come no? Io tu sto dici dicendo... sparate, ma va. Neanche lui spara, ovviamente. Io sto dicendo... Se hai l'arma, puoi sparare. C'è la legge sulla legittima difesa. Ragazzi, lo puoi fare. Ma ti... Quante sono state le persone condannate in tutti questi anni? Pochissime. No... Solo per casi rarissimi. Quindi si può sparare. La legittima difesa c'è. Ma tu fai un discorso razionale. Oh. In ma realtà, non è razionale poi... quello che già no, avviene. Perché non è passi diritto. Le pene dell'inferno in tribunale. Hai ma sentito quali... quello che ho ricordato infatti, alle ali? L'hai sentito o no quello che ho ricordato? C'è una legge depositata in Parlamento e che Salvini palle. Non ha voluto votare. Che che prevede tra le altre cose, tolta la minchiata del giorno e della notte che distingueva ma in quella quello follia, il punto, no? Che se no, la legge aveva un articolato no, molto ma più che complesso. Palle. Ma che sei? Ma mica quale... sei del Partito Democratico tu? Nel... Ma dai, no, su. Ma, infatti, ma non sono stati non capaci di approvarle, basta. E non neanche sono stati... probabilmente non lo voterò, stato... quindi state non sereni. Non sono stati capaci di approvarla, punto. Dai, Massimo, dai. Chi si è opposto a quella legge, cioè la Lega e altri, erano gli sono gli stessi che hanno la responsabilità. No, no. Massimo, eccola. Dai. Comunque Massimo, la legge sulla libera difesa c'è ed è quella di Castelli. Vabbè, Massimo, dimmi, dai. Fatta che mi faccia parlare chi... Mamma mia, che paura. Dai, Massimo, allora, di chi vive la vita in maniera reale. Tu, sei tu hai detto che sei vuoi il fascismo. No, io non ho detto che sono fascista. Io ho detto semplicemente, ed è bene ma che, sì, vabbè, visto che anche gratis, Parenzo vada su YouTube, scrive Indro Montanelli, fascismo, e sente cosa diceva Indro Montanelli, che non mi sembra fosse stato una ma persona certo. di sinistra, scusa, di destra. Ma certo, okay, ma Montanelli è stato... Ma Montanelli no, ma certamente, tu hai detto, tutti, tu hai detto che vuoi il ritorno di una dittatura. Io voglio, come lo vogliono tanti imprenditori, che finalmente in un paese tanti? Che deve essere tanti? Uno dei prima... Tanti imprenditori? Imprenditori? Cioè tu, okay. Tu fai l'imprenditore, Io faccio l'imprenditore, sì. Fai l'imprenditore e vorresti ritorno del fascismo. E ritorno del fascismo. L'hai detto prima, no? No, l'hai detto prima. L'hai detto prima. L'hai detto prima. Sono dei valori, anche grazie ma quali a una grazie anche grazie a una dittatura. Cioè, se tu sei un imprenditore e tu dici che ci vuole una dittatura, assolutamente no. Ragazzi, io fino a qua, no, ma è una follia. Dai, su, Massimo, è una follia. Ma Giuseppe, di cosa stiamo parlando? Continuiamo a fare che cosa? A fare la faccia bella anche se le cose vanno male, ma che vuol dire? Cioè, che vuol dire? Non puoi, ma non puoi saltare la dittatura, dai. Ma no, ho detto la dittatura nel senso che la dittatura non è che c'ha molti significati. La dittatura uno dice dittatura è dittatura, prende le decisioni indipendentemente dagli interessi dei pochi. Ma che vuol questo dire? Ma tu dici il governo di uno è questa la dittatura quando uno fa il cazzo che vuole, no? È così. Mugabe, guardi, Mugabe, cosa stanno facendo? No, ma in democrazia cosa stanno facendo? In democrazia, ma perché c'è questo pochi, disprezzo scusate. Della democrazia? Ma che discorsi ma fa? Allora vado da Mugabe. Richiami Mugabe, va. Visto che Mugabe è stato appena destituito, si porti Mugabe. Porti Mugabe. Montanelli cosa dice del fascismo? Si prezzi, sì, ma lasci stare Indro Montanelli. Quel governo Indro Montanelli è stato l'unico prima del ventennio a fare qualcosa. Ma sì, ma va benissimo. L'abbiamo letta tutti la storia di Cervi Montanelli. Va benissimo. Senta, faccia così. Visto che le piace la dittatura, faccia così. E c'è un dittatore libero che è stato appena destituito. Signor Mugabe. Signor Mugabe, benissimo. Allora, visto che le piace tanto la dittatura, sedicente imprenditorucolo, le do un recapito, una mail opinione, di questo signor come io non ho Mugabe. Lei è di prendere ma lei, persone, ma secondo ma un imprenditore serio può dire che ci vuole la dittatura? Un genitore piuttosto che una persona di merda, ha capito? Ma secondo lei, ma un imprenditore normale può dire che ci vuole la dittatura? Comunque le do un consiglio, se lei è un imprenditore, serve. Ottimo. Vabbè, quello l'hai detto, serve chi? Le do una mail del signor Robert Gabriel Mugabe. Ha del tempo libero. Lo incontri e organizzi con il dottor Robert Gabriel Mugabe, molto elegante, con dei gessati, bellissimo, è ricchissimo, era Mugabe. Ottimo. Certo, il suo paese, lo Zimbabwe, era povero con le pezze al culo, ma lui era assolutamente ricchissimo. Ricchissimo. Scusa, allora, lei con la sua impresa contatti Robert Gabriel Mugabe, che ha molto tempo libero ora, non parlarvi di cose che non c'entrano niente con l'Italia. Ti sto chiedendo, beh, però, quelli adesso... che sono al governo, no, no, adesso, vada pure. In 5 anni, cosa hanno fatto per l'Italia? Le recupero un indirizzo, una mail. No, le assicuro che le risponderà. Visto che non se le risponderà il dottor Mugabe, adesso, se c'è la dittatura, certo, non a favore certo, degli certo. italiani. Mi vabbè. Dici cosa hanno questi signori hanno scusa, fatto per l'Italia? Sei imprenditore di che guardi, cosa, se Massimo? Se lei vuole, ci sono anche altri dittatori che al momento magari sono impediti nell'esercizio cosa, delle loro funzioni. Tu ad esempio, il signor Mladic, se lei vuole, il signor Mladic è stato da poco condannato all'ergastolo. Però se lei vuole lo può contattare, il signor Mladic. Hai capito? Ma lascia perdere, parla dell'Italia, non sta parlando dell'estero. Vabbè, Massimo, ciao. Alessio, Firenze, vai. Alessio da Firenze. Ciao ragazzi. Allora fermo, aspetta Alessio, facciamo risentire un po' quello che mi ha detto quello del call center prima, sentiamo un attimo. Pronto? Pronto, signor Giuseppe? Sì, chi è? Sì, salve, sono Giovanni, chiamo dall'Italia per conto di Eni, Luce e Gas. Lei conosce la nostra azienda? Sì, conosco, mi dica. La stavo contattando perché siamo in campagna promozionale. Che non hai pagato la bolletta. Le tariffe molto vantaggiose. Sì, e ma anche dei servizi scusi, innovativi. Scusi, sono al cesso in questo momento. Che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora faccio una cosa. Si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Okay. Come? Non ho capito? Ha ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso. Che cazzo devo fare? Allora, io dico una cosa, no? Adesso, per carità, prima ho avuto uno sfogo, cacciatelo. Beh, è stato bravissimo, è no, anche ma pronto. No, per carità, questo. Assolutamente, è stato bravo a rispondere, però non è suo compito, non è che deve fare un dibattito alla radio con me. Cioè, questo non è che uno che fa gli scherzi telefonici, quelli siamo noi. In teoria, quello là deve conquistare un cliente. E quello stava lavorando, aspetta, poverino. Ma deve conquistare... Tu l'hai trattato così? No, innanzitutto non mi devono rompere i coglioni col mio numero di telefono, questo dunque. Non beh, mi dovete sanno, rompere il cazzo col mio numero si di vede telefono, che chiaro? Tu hai dato il consenso no, dargli non il numero, ho dato nessun consenso, non devo rompere. Sono delle spie. Primo, aspetta, allora, no, la cosa fondamentale è questa, non mi devono rompere il cazzo. Secondo, se la vogliamo mettere su un piano, diciamo, più nobile, questo signore qui, che è stato bravo a rispondere in quel modo, per carità, con la gente sotto che rideva, gli altri del call center, no, che ridevano, se la ridevano, eccetera. Lavoratori, gente che stava lavorando e ridacchiava sulla battuta di questo, ma lasciamo perdere. Questo qua deve conquistare un cliente. Io... non stavo cagando, chiaramente ero in radio, no? Però cioè, tu devi... risposto no, male, lui, ho capito, ma sapere. Tu ma che male, che ho detto, sto cagando, che devo fare? Continuo a cagare o tiro lo sciacquone? Ma cioè... non è normale dire a uno che lavora, poveretto, un operatore no. del call center, cosa? Sarà stata la millesima telefonata che ha fatto e già ma guadagna che sei, pochissimo. Ma guarda che sei incredibile. Lì. Cioè questo qua, ripeto, io no, sto ma risentiamo. Parte del lavoratore che stava lavorando, no, ma risentiamo. Poverino. No, un pezzettino, fatemi sentire un pezzettino ancora. Scusi, sono al cesso in questo momento, che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora faccia una cosa, si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come? Non ho capito? Ma che sei scemo? Ma sto al cesso, che cazzo devo fare? Questo ho sentito anche un piccolo un accento, no? Un accenno fatto di accento from Naples. From bravissimo Naples. Bravissimo. Sì, bravissimo, ma ha fatto bene quanto ti pare. Ma non è una battaglia. Deve conquistare un cliente. Questo che tizio dell'Eni. L'hai questo, trattato il con compito un, con suo un è conquistare un cliente. Non fare la battaglia radiofonica con me. Non la radiofonica lui non lo sa. Dialettica con me. Non deve fare la battaglia dialettica col sottoscritto. Deve conquistare un cliente. E dopodiché ma che cosa trattato dice male. No, avrà ma che diritto cosa... a risponderti no, ma io male che cosa no? ho trattato male. Ho detto se ho lui non sapeva no, ma che sei tu eri in diretta ma no? Grazie al cazzo che non lo... ma che c'entra l'hai questo trattato questo non male c'entra nulla. E quello ti ha risposto male no, ovviamente ma scusa, perché ma, se ti ha trattato male un lavoratore no, e uno che fa il suo lavoro che tratta male che cosa. Io ho semplicemente fatto la fotografia di una situazione che lui non può sapere ma se ti suona l'idraulico a casa tu gli dici no scusami sono al cesso gli dirai scusi in questo momento ma che cosa ho detto che è un pezzo di no, merda scusa, ho detto che è un pezzo di merda ma no, risentiamo ma è chiaro tutto. Che è stata risentiamo una maleducazione tutto, evidente tutto. Una maleducazione ma che maleducazione evidente. Dai risentiamo tutto totale pronto? Totale pronto signor Giuseppe sì chi è? Sì salve sono Giovanni chiamo dall'Italia per conto di Eni Luce e Gas lei conosce la nostra azienda? Sì conosco mi dica. La stavo contattando perché siamo in campagna promozionale. Perché non hai pagato la bolletta. Le tariffe molto vantaggiose. Sì, ma scusi, sono al cesso in questo momento. Che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora faccia una cosa. Si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come? Non ho capito? Ha ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso, che cazzo devo fare? Allora, risentendo bene, però non è scusa, siccome questi hanno nome e cognome delle persone gli che hai chiamano. Detto, sto no, siccome cagando, questi hanno nome e cognome, cioè... non è manco escluso che questo qua, sappia in realtà chi sono. Primo, io ho detto che stavo cagando, mica ho detto che un pezzo di merda. Ha un numero di ho telefono, detto, no, non è vero. Hanno, a parte che mi sta sui coglioni, dico signor Giuseppe, che cazzo dici? Giuseppe Cruciani, dillo, no? Hai nome e cognome, sicuramente, hai numero cellulare, hai nome e cognome. Adesso, fanno così le telefonate, non è che devi insegnargli tu come si fanno le telefonate. Perché queste società... Gli hai detto vado a cagare. No, sto cagando. Ma si dice, ma si risponde così a uno che quello lavora, deve ma conquistare, si deve conquistare ma un cliente. Ma cosa deve conquistare? Era la milionesima telefonata del giorno, ti ha mandato giustamente a quel paese e ha fatto benissimo. Ma quello l'hai preso in giro, poveretto. Sta lì con le cuffie, 8 ore al giorno culo, a telefonare a della gentaglia come te, chiedendogli per, di offrirgli peraltro un'opportunità, appunto, no? Appunto. E tu lo mandi a cagare, quello allora, giustamente dice: senta, allora, faccia un favore all'umanità, si butti dentro e tiri l'acqua. Non è stato neanche volgare, peraltro. Non è stato, dato, andrebbe premiato, andrebbe fatto direttore generale dell'ENI quello lì. Altro allora, che, ragazzi, dato che tu no, sei veramente un per coglione. Per la prontezza cioè, con la quale, allora, signor, con la quale ti porti, ha risposto, perché è stato educato. Che, si butti dentro, è stato quello educato che ha fatto lui. Il capo. Io ho detto che stavo cagando, quello ha detto si butti dentro il cesso e io chiedo, so, e lui è educato. Ma che sei scemo? Al sei? Mio amico, capo della comunicazione dell'ENI, di cui non faccio il nome, ma è un amico carissimo. No, intervengano, hanno perso un cliente. E portatelo al marketing, promuovetelo. Ma quale perso? Che non paghi una bolletta in vita tua? Quale perso? Ti devono staccare la luce e il gas a te. Altro che, perché se andassero a vedere i ritardi che hai nei pagamenti, peggio di un rom sei che ti allacci all'inquilino che sta sotto casa tua. Lo sanno tutti che hai fatto l'allaccino come fanno lì. Poi dici i rom. Scusi, signor Cruciani, ti volevano offrire uno sconto sulla bolletta e dai. Amici dell'ENI, avete perso un cliente. Andate a rintracciare per colpa di quello che ha detto che devo andare dentro il cesso. Andatelo a rintracciare questo qua. Mettetelo fategli a capo una del bella marketing, lavata di capo, altro solo, che solo capo del di marketing, sì, aiuto marketing capo marketing. Fermo là. Bravissimo è stato, pronto. Dovete morire tutti all'inferno, bastardi, stronzi, merdosi. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. La Zanzara. Scusa, ma se non possiamo rimandare indietro in Nigeria i migranti perché c'è la guerra civile, vuol dire che la guerra civile è in Nigeria. E se c'è la guerra civile, questi non possono partecipare al mondiale. Quindi fuori dal cazzo che rientriamo noi. La Zanzara. Ascolta, che tu ti sei allontanato. A me non me ne frega un cazzo. Hai capito? E cancella le mie foto. Luciani, anche gli uomini possono avere l'orgasmo del capezzolo. Basta trovare il centro massaggi cinese giusto. Siamo al top. Parenzo, amico mio, io veramente non capisco cosa tu ci veda di male nel fatto che una donna nel suo privato possa concedersi magari con le amiche una sana chiacchierata sul cazzo. Insomma, siamo creature tridimensionali, siamo esseri complessi. Io posso leggere Schopenhauer al mattino per poi parlare di cazzo con le mie amiche all'aperitivo e non penso che questo faccia di me lo specchio di una società ammalata. No? Hai capito? Ragazzi, tutto quello che volete, ma senza cazzo si può stare. Senza vibratore assolutamente no. Naturalmente. Molto bene, specchio, voce di una società. Di una società che non si arrende al bigottismo, non si arrende al parenzismo. Ma bigottismo? Non ma si non arrende c'è nessun bigottismo, al parenzismo. Ma non c'è nessun bagatino. Io voglio rassicurare la signora o signorina, non so chi, sì? Come, che cosa sia, non voglio impedire alcuna conversazione su questo genere di argomenti. No, tutt'altro, ma tu dici che dico, le donne non pensano come gli uomini. No, come gli commentavo uomini. La frase della Parsi che hai fatto sentire Maria qualche Rita settimana Parsi, fa, sì, dicendo sì, che non è vero che nel 90% del tempo le donne parlano di quello. No, non mi pare, non mi risulta, però poi se è così va benissimo. Allora, ragazzi. Oggi ci sono varie notizie che abbiamo trascurato, di cui non ce ne frega assolutamente la un prima cazzo. Tra tutte è la condanna all'ergastolo del boia d'Europa, cioè il signor Mladic. Vabbè, allora, no, siccome cazzo. Tu No, no, no, siccome tu prima hai detto cosa ha fatto la Bonino e cosa ha fatto Razzi, dico che Emma Bonino ha contribuito all'istituzione del Tribunale Penale Internazionale, della Corte Penale Internazionale, grazie alla quale oggi si è condannato il macellaio Mladic all'ergastolo. Allora, quindi la Bonino ha fatto anche questo, la Corte Penale Internazionale. Il sondaggio Razzi si è pagato il mutuo. Poi la Bonino io preferisco ha fatto... Razzi in Parlamento alla Bonino. Allora, fermo. Altre notizie, fermo un attimo. Razzi, fermo. Altre, altre notizie di oggi. Salvini vuole un impegno antinciucio. Andremo da un notaio. Addirittura il notaio con Berlusconi. L'indagine sui genovese, indagato addirittura il neodeputato genovese. L'Unione Europea che dice che quelli Novax sono responsabili per la morte dei bambini. Ottimo. Però a noi non ce ne frega un cazzo. E vi leggo, una pagina straordinaria. La masturbazione femminile è meno frequente di quella maschile, si dice, in apparenza. È solo più nascosta e segreta, come tutta la natura della donna. Lei lo può fare anche stringendo le gambe o appoggiando il ventre allo spigolo di un tavolo di un calorifero. Questo è vero. Sì, ma quando si masturba, per così dire, apertamente, il modo più usuale non è di mettersi un dito dentro. No, attenzione, fatemi, mi hai fatto distrarre, cazzo. Quando... Ma se la musica di Piero Angela, cioè, no, la agghiacciante alle 20:24. Quando sarà Massimo Fini, questo quando qua. Che un conto è leggerlo nel privato, un conto è leggerlo con la musichetta di Piero Angela sotto, che sembra quando... anche il servizio pubblico. Aspetta. Questo è il servizio pubblico, no? Pubblico. Servizio pubblico. Quando si masturba, per adesso così hai dire. Coraggio di chiedere il canone per questo anche. Dai. Ma quando si masturba, per così dire, apertamente, il modo più usuale non è di mettersi un dito dentro, ma è uno sfiorare a palmo aperto, con medio, indice e anulare uniti, mentre il pollice e il mignolo sottile si divaricano, il clitoride e le labbra, un battito leggero e febbrile come quello delle ali di una libellula. In una donna che si accarezza c'è qualcosa di delicato, di commovente, una tenerezza verso se stessa estranea alla rabbiosa masturbazione del maschio, sia perché la donna si ama di più il proprio corpo e lo conosce meglio, è il punto a favore dell'amore saffico rispetto alle goffe intrusioni maschili, sia perché lei non c'è il senso di spreco che prende l'uomo, come quando si corrompe a terra per aver sparso quel seme che è la vita, e anche più concretamente e cinicamente per aver sparato a vuoto un colpo che era forse meglio tenere in canna. Questo è bellissimo. Ripeto, in lei non c'è il senso di spreco che prende l'uomo quando, come Onan, si corrompe a terra per aver sparso quel seme che è la vita, e anche più concretamente e cinicamente per aver sparato a vuoto un colpo che era forse meglio tenere in canna. Perché è vero, spesso quando l'uomo si masturba vuole in realtà un senso di quasi di pentimento, perché dico, cazzo, sto sprecando qualche cosa che magari poi mi serve, energia che serve in realtà per quel colpo in canna, che è poi l'atto sessuale vero e proprio. Ragazzi, molti di voi sono scettici di fronte a un personaggio straordinario, un personaggio che si chiama Nadia, un trans dalla doppia voce. Tipi da zanzara. Nadia, vai Nadia. Ciao ragazzi, insomma, Nadia. Se per incazzarmi devo sentirmi alle palle. Ma giustamente, scusami, adesso, fermo. Gli Stati Uniti sono un paese civile vicino a noi. Ma Crucianimo! Che porco cazzo! Chi è? Ma sei grazie tu? Renato, come Nadia. Certo che sono io, certo. Cioè, è il trans Nadia che cambia la voce? Certo. Tu sei operata? No, non sono operata. Cioè, c'hai il pisello? Sì, tu apro, certo che ce l'ho, chiaro. E non me lo ricordo, quanto ce l'hai lungo? No, piccolino. Piccolo anche perché comunque non lo uso. Ce l'hai atrofizzato dal coso, dalle medicine che fortunatamente lo Stato non mi passa, che quindi io devo pagare, io pago, e in più dovrei pagarmi e assorbirmi poi anche un'eventuale spesa per un'operazione. Mi sembra anche una cosa un po' assurda. La è un'autentica cogliona, è una cogliona. Io pensavo che più nero della notte di Andinolfi non ci fosse, invece c'è lei. Ragione, se tu scrivi Silvana De Mari come ricerche correlate ti sputa fuori Adinolfi, ma chissà perché. I due vanno a braccetto, si sa. Ma lo so, ma infatti. Però scusa, ti leggo quest'altra cosa. Vanno in coppia, è vero. Cara De Mari, questo è il mondo reale. Nadia che può cambiare voce quando cazzo vuole, vero Nadia? Ecco, digliela sta stronza che non capisce un cazzo di niente. Astronza, io la posso dire, astronza. Morti da Zanzara. A Crucia, io ho la netta sensazione che quel Vincenzo Onatia sia un po' una presa in giro, perché quando parla con la voce maschile è letteralmente romano, quando tende al femminile ha una cadenza e un accento napoletano. Mi sembra un po' strana sta cosa. Se uno è romano Ciao Giuseppe, stavo a sentire stamattina la puntata di ieri. In finale sei risentito per l'ennesima volta quella persona, la Nadia, quella che cambia voce. Cioè, ma si sente palese che sono due persone diverse. Quando si zitta lei e parla da donna, arriva uno e parla da uomo. Sono due persone diverse. Cioè, giusto te che sei un coglione, cioè, puoi credere, che sai, se sei un idiota. Infatti non so come Parenzo riesce ancora a star là. Mi dispiace per lui, provo pietà umana per Parenzo che ancora sta vicino a te, a uno come te che crede a ste stronzate. Però per me, se te ne fregherà niente, però per me sono due persone diverse. E ripeto, solo un idiota come te ci può credere. Comunque te voglio bene, sia chiaro. Ciao. Allora ragazzi, vi posso dire che è assolutamente impossibile che abbia, che con un registratore faccia una voce diversa da quella originale. È impossibile. Però ancora, l'unica prova è quella, invitiamola in studio, sì, infatti, e verifichiamo. Sto ricevendo un sacco di telefonate su questa storia dell'operatore di prima dell'Eni, di una società che lavora per l'Eni. E riascoltiamo. Beh, quello certo, che è successo. No, indignata, no, ma la cosa incredibile è questa: questo signore mi dovrebbe conquistare. Cioè, questo signore mi dovrebbe conquistare e invece pesce, si mette a battibeccare con me al telefono. È un lavoratore che guadagna, ma è una vergogna. Che guadagnerà anche poco, poverino, perché ma fa va bene, ma che, per carità, ragazzi, ma non deve, lavori... deve, siccome fa delle telefonate alle persone, ed è un'intrusione, la ventunesima telefonata, è un'intrusione, si ma che bullo, cazzo, è il suo lavoro, te, è il suo lavoro, è il suo lavoro, è il suo lavoro. Ma non è il suo lavoro confrontarsi con i bulli. No, è il suo lavoro, siccome rompi i coglioni alla gente per telefono, la gente per telefono, è il suo lavoro, devi non sopportare. Ti vuole proporre di pagare meno sulle tariffe, quello no, ti ha proposto, sì, per, mica ti meno ti, per lui. Ti, risentiamo, ti, risentiamo, risentiamo. Bene, per pronto? Lui, per la sua città. Pronto, signor Giuseppe? Sì, chi è? Sì, salve, sono Giovanni, chiamo dall'Italia per conto di Eni, Luce e Gas. Ne conosce la nostra azienda? Sì, conosco, mi dica. La stavo contattando perché siamo in campagna promozionale. Perché non hai pagato la bolletta. Le tariffe molto vantaggiose. Sì, ma scusi, innovativi. Scusi, sono al cesso in questo momento. Che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora, faccio una cosa. Si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come? Non ho capito? Ha ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso. Che cazzo devo fare? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. La Zanzara. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo! Parenzo! Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Parenzo! Vibratore, vibratore, vibra non ti fermare. Vi piace un mondo così? Finire nel cassetto troppi sogni da realizzare. A me fa cagare! Noia galoppa ti viene incontro la tecnologia. Parenzo! Se la carne scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. E che cos'è? No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo... Quando muoio voglio essere cremato. Le mie ceneri cruciani le affido a te. Spargile in un bordello. E lì recita le parole, sei finalmente a casa. Parla l'intelligentone che ascolta la Zanzara, che programmano i tour delle puttane, Nicola. I tour delle puttane. Hai capito che dice, puttan tour. Scusa, sorry. Puttan tour. Che sto fa fare? La sua intelligenza è grazie a Cruciani, come si chiama? Cruciani, capito niente? Puttan tour, eh? Alessandro puttan tour. A chi si è già la banca puttane? Puttan tour. I'm here for, let you get away, yeah. Mamma mia, ragazzi, che trasmissione, che delirio, che delirio. Alessio da Firenze, che delirio. Mamma, vai, Alessio, dimmi. Sì. Che immagine del paese. Che vai, immagine. Alessio, vai, dimmi. Ciao, ragazzi, mi sentite? Dimmi, dimmi, vai, forza. Allora, io stavolta sono stranamente d'accordo con David. Ma su cosa? Ma non per gli immigrati, sì, per i settori di felicità, la legge Fiano, tutta roba inutile. Per l'abito di Sartoria napoletana. Cioè? Cioè, io sono d'accordo perché anche io... Abiti, anche tu, aspetta, ragazzi, ma non fate tutti a gara su sto, sto cazzo di telefono. Me. Dai, Alessio, su, dai. No, il viva voce. E lo so, però va e viene la linea, forza, dai. Allora, anch'io sono amante anch'io degli abiti di Sartoria napoletana. E chi se ne frega, e allora? E quindi sono d'accordo con Parenzo, però dico una cosa: anche Parenzo deve essere bello benestante, perché questa roba costa tanto. Cioè. Ma lo sappiamo che costa tanto, lo sappiamo. Siamo... Ma te costa... ieri l'hai detto, ma te no, ieri no, l'hai non detto. Così. Spenderai almeno 1000 euro. No, di più, almeno tra poi lo sconticino, sconticino giornalistico, sconticino conoscenza. No, giornalista, è un si amico, arriva ai 2000-2005, massimo amico, quindi. Di più. 4000, quelle secco. Della sartoria a Torino. Ma figurati, 4.500 euro. Sì, non c'è, come lei sa, a Tolini, Giuseppe a Torino da non c'è Bari, più, come lei sa, Giuseppe, ma la cifra non è assolutamente quella. Giuseppe da Bari, assolutamente. Vai Giuseppe da Bari. Comunque, anche se fosse c'è chi se lo può permettere, è ben per lui che se lo compra. Vai, dimmi Giuseppe, dimmi. Io sono al contrario a quello che dice Parenzo degli stranieri. Meno male. In che senso, perché, scusa? Mi stavo preoccupando che un signore così la pensasse come me. Meno male che... Perché così? Appena hai iniziato a parlare che subito gli dici l'idea del cretino, non ho capito. No, per l'approccio che ha, solo per l'approccio che ha, meno male. Perché è una schifezza. Qui io sono... Per gli argomenti che usa. Parenzo, hai detto che gli stranieri vengono per lavorare in campagna, che in Italia non lavorano più in campagna. Io ho 35 anni dico che spesso il culo dalla mattina alla sera in vengono, campagna. Dico, beh, lei non ho dubbi, sicuramente lo fa, dico che spesso vengono impiegati nelle campagne, alcuni non vengono neppure pagati perché lavorano in nero. No. Perché lavorano in nero, purtroppo. Vedi il fenomeno del caporalato, in Puglia. Vabbè, ma molti di loro mungono le vacche padane, mungono le vacche padane sulle Alpi. Molti di loro, moltissimi. Ma lo fai parlare o no? Ma lo fai parlare o no? Vai, Giuseppe. Io ne avevo 5 con me a lavorare, 5 negri. E allora? Ogni giorno ne mancava uno. E veniva l'altro e se ne andava un altro, veniva un altro e se ne andava un altro. Però venivano solo loro. Erano sempre loro, però facevano a turni a lavorare. Io o li devo pagare per tutte e 5, o li devo pagare perché io mettevo l'ingaggio al giorno, ci davo 40 euro al giorno, più un foglio di ingaggio. L'ingaggio allora? Perché quando. Quanto li pagavi? È nero, come li pagavi? No, in regola. Però venivano solo loro, non venivano gli altri, cioè gli italiani non venivano. No, gli italiani, sì, cioè, ce ne ho anche 4 di italiani. Sì, ma venivano sempre negri, come li chiami tu? Io li chiamo negri perché sono negri, sono di colore. Beh sì, infatti negri, ma io non ti sto dicendo niente, parezzo che... male, va bene. Venivano solo loro, però. Dice senza animo razzista, va bene, ma vabbè, insomma... Vabbè, ti saluto, Giuseppe. Io gli ho dato una casa, una mezza, diciamo una villetta piccola, che allora? È in campagna. Allora? Per loro. Me l'hanno sfandumata, me l'hanno brecciata, sono degli animali, sono, non è che io non li voglio, mi hanno rovinato tutto. E la sua esperienza è questa, Davide, tutto che devi fare? Giuseppe, ciao, ti saluto. Mi dispiace, dai. Per lui saranno non delle brave persone. Vai. Allora, io vorrei chiamare la dottoressa De Mari. Ti prego, richiamiamo la dottoressa De Mari. No, per carità. Che dice per che carità. C'è una madre stronza, che le madri contribuiscono da stronze al fatto che i bambini diventano transessuali, che poi è tutto sto fenomeno in crescita dei bambini che sin dall'adolescenza diventano transessuali. Bah. Dottoressa De Mari, buonasera, come sta? Bene, grazie. Io volevo capire una cosa. Lei come considera in generale i transessuali? Perché ho sentito, ho letto delle cose. Per quanto riguarda le persone trans, sì, questa pratica di bloccare la pubertà col gonapectin, che è un farmaco carissimo, così che il bambino a 14 anni possa affrontare il cambiamento di sesso senza troppi variazioni è un delirio, perché il 98% dei bambini e l'88% delle bambine che a 9, 10, 11 anni dichiara di voler essere dell'altro sesso, quando arriva la pubertà col suo fiume di ormoni, si rimette in carreggiata e decide di restare del proprio sesso, quindi evitando cure ormonali ed evitando interventi chirurgici che sono devastanti, inoltre evitando che dei genitali sani, dei testicoli sani, un utero sano, delle ovaie sane siano buttati nel bidone della spazzatura. Noi abbiamo delle statistiche fatte molto bene in Svezia e ci dicono che dopo il cambiamento del sesso il rischio di suicidio si moltiplica per 20. Per inciso, quando io avevo 9-10 anni, io avrei disperatamente voluto essere un maschio. Io ero assolutamente certa che sarei stata, guardi, sarei stata disposta a farmi amputare una gamba pur di poter essere un maschio. Addirittura. Perché? Perché casa mia avevamo avuto delle linee disfunzionali e io non avevo potuto fare il meccanismo di identificazione con mia madre. Mia madre era una donna che purtroppo soffriva di una depressione grave e io spesso la vedevo seduta su una sedia che guardava il muro di fronte. Per cui lei voleva essere un maschio? Esatto, quando è arrivata la pubertà è sparito tutto. Ma lei i trans come li definisce? Una volta che sono diventati trans, come li definisce come persone i trans? Se sono felici mi fa piacere per loro. Purtroppo, nella mia personale esperienza, ho un carissimo amico che è devastato dal rimpianto di aver fatto il passaggio e un'altra persona che è devastato dal rimpianto. Cioè, secondo lei non sono persone felici? Sicuramente Vladimir Guadagno è contento. C'è una marea di persone che non sono contente, la cui voce non viene ascoltata. Senta, scusi un attimo, perché lei pensa che la vagina delle trans sia sporca? Non lo penso io, lo pensa la chimica, lo pensa la fisiologia e lo pensa l'anatomia. Le spiego. Sì. La mia vagina è un organo specifico che non si può imitare. Sì, questo perché non c'è ha una muscolare, una mucosa fatta apposta delle ghiandole defecanti. Sì. La vagina o ce l'hai o non ce l'hai. Sì. Nel trans, a parte che non ho mai detto che è sporca, ho detto che è infetta. Mi scusi, non mi metta a bocca infetta, cosa che ho detto. Infetta. Perché si infetta in continuazione, dato che è una tappa artificiale dove c'è del sebo. Lo stesso si infetta nelle femmine che diventano maschi. Va bene. Questo tubicino che dovrebbe portare all'esterno l'urina, che non è l'uretra, perché lei l'uretra o ce l'ha o non ce l'ha, in questo caso ce l'ha, è fabbricata con altri tessuti. L'infezione non è un insulto, è una diagnosi medica. E dunque, secondo lei, noi non dobbiamo pagare per queste cose qui? Cioè il Servizio Pubblico Nazionale non dovrebbe pagare il cambiamento di sesso? Assolutamente no, soprattutto in un momento come questo, in cui ho i canchi della mammella che mi aspettano 7 mesi, i canchi della prostata che sono in lista di attesa, è un tipo di argomento in cui io la pago, io la avvallo. Si tratta di una chirurgia che non salva la vita. Ormai il sistema sanitario è allo sfascio, per carità, curiamo i cancri, gli infarti, lasciamo perdere... Cioè non possiamo dare soldi per il cambiamento di sesso, ma c'è un sacco di gente che si sente donna o si sente uomo e vuole cambiare sesso e non ha i soldi, come facciamo con questi? E queste persone saranno infelici ma non muoiono. Quelli del cancro della mammella, se glielo opero con 6 mesi di ritardo, potrebbero anche morire. Scusi, perché lei ce l'ha tanto anche con i sex toys, ho letto da qualche parte? Pure. Perché ce l'ho tanto con i sex toys? È molto semplice, perché abbiamo una natalità di 1.27, cioè ci stiamo estinguendo, stiamo andando incontro a un processo di ribanizzazione. Estinguendo. Adesso non esageriamo, estinguendo adesso. Ma adesso si può... Vabbè, però aspetta, sex toys, capitolo sex toys, avanti. Sex toys è un sistema di masturbazione. Sì, più o meno. E cosa fa la masturbazione? Allontana dal sesso, quello vero, che è un uomo e una donna, è il profumo del corpo di un uomo, è il profumo del corpo di una donna. Qui stiamo tutti andando verso la masturbazione. Beh, e sempre di più. Ma guardi, io ma tutti chi? Le persone, ma non c'è un mondo di gente che si masturba? Ma dove vive, signora mia? Ma che cosa sta dicendo? Purtroppo ascolta i miei pazienti, guardi. Ma lei sembra vive in un mondo che è popolato Però questo è anche corretto. Secondo me è vero che stiamo andando verso un mondo dove la gente si masturba sempre di più, ma questo qua non è un male, signora De Mari, non è un male. Vabbè, questo qua. Quello ci mancherebbe, anzi. È un male perché rinunciano al sesso, che ragazzi, il sesso ma una cosa non esclude l'altra, amica mia, su, una toccatina e poi un po' di senso, dai! Grazie, arrivederci. Allora, la conclusione di questa puntata, dopo un'altra incredibile intervista alla dottoressa De Mari, che era in macchina, si stava spostando Ma avete sentito la cosa incredibile? La mitica professoressa De Mari, un personaggio agghiacciante, ha detto che voleva essere un uomo. La conclusione di questa puntata non può che essere affidata a Beatrice Ulmi, transessuale, maschio, poi col taglio dell'uccello, dico taglio così, diventata femmina, ha anche un fidanzato. Ciao Beatrice. Ciao Giuseppe, ciao. Guarda, questa notizia della De Mari che abbiamo scoperto stasera essere una transessuale mancata è una notizia, cioè, bomba. Sì, però, però la cosa non è così strano, però, in realtà, se ci pensi bene. Sarà se... domani l'apertura della Nuova Repubblica lei, diretta. Lei odia le transessuali perché non è riuscita lei a diventarlo. Tu dici che è così? Cioè, questo non è... può essere psicologicamente sì. Senti, ma non ho capito, ma è vero o no? È vero o no quello che ha detto prima, cioè dire che tu hai la figa adesso, giusto? Esatto. Tu hai la figa. Non è infetta, non è appunto, infetta, è infetta o no? Pulitissima, assolutissima. Ma non cosa interessa, no. Cos'è la cosa della signora però? Non hai mai ho avuto una cistite in vita mia, cioè lei dice che la figa, diciamo, costruita ad hoc come è la tua, ma chi, diciamo, se ne frega, no? Di cosa c'hanno queste signore? Ma cosa, chi se ne frega, è fondamentale questa ma cosa avranno qua, scusa. Quello che avranno, io cosa poi, mi interessa sapere a me se è buona o non è buona, c'è pochi minuti David, c'è pochi minuti, mi piacerebbe spiegare com'è l'operazione, tutto no, dopo la spieghiamo domani in un altro momento l'operazione che ha subito, l'operazione che ha subito Beatrice. Dimmi, l'ultima dimmi. Cosa che voglio dire è che io sono devastata, ma dalla felicità di aver fatto quello che ho fatto. E lei è una persona veramente triste. D'accordo, però voglio capire una cosa. Ma tu è vero che, cioè, i tuoi umori quando fai sesso sì. Sono davanti o dietro? Anzi, perché questo è relativo all'operazione. La nostra operazione viene fatta lasciando un buchetto all'interno della prostata che si collega con la neovagina e quando si miete. La neovagina, ma il neoclassicismo, no? La neovagina, cos'è, cioè, la neovagina? Non ho capito, non ho capito questa cosa. Ma quando mi eccito, un po' di liquido dalla prostata entra appunto nella neovagina. Ma cosa ce ne frega a noi di quel che entra? Aspetta, fermo, da dove vieni tu? Scusa, dove eri? Dal culo o dalla figa? Questa è interessante. O da tutte e due? Mamma mia, ma che roba! Dalla figa, come cioè, tu da operata riesci a ti bagni o no? Ti bagni Sì, te l'ho spiegato adesso. Ma che è un'operazione. Ma anche dietro ti bagni? Ma non anche ci interessa quello che succede da lei. Non ci interessa cosa succede a casa sua, lì, Giuseppe, nella sua. Allora, Beatrice è una transessuale molto particolare anche dal punto di vista fisico. Certo, possiamo dire che non sei una bellezza, diciamo, no? Beatrice, no, lo possiamo dire. È oscena. Beh, è un trans che si dichiara osceno. Ragazzi, ma no, Beatrice, ma no, ma ora ho detto non sono per amor di Dio, lo sai, mi conosci. Quanto pesi? Non so, sarò una novantina di chili. Sei bassa, però dunque sei un po' una bella tozza, potente, bella massiccia. No, l'importante è che piaccio al mio compagno. Vabbè, allora nei prossimi giorni ci spiegherai tutta l'operazione come avviene. Ma per carità, nei dettagli, l'operazione di taglio del cazzo, di taglio del pisello, di operazione e come si ricostruisce una figa, capito? Ragazzi, mi chiami a domani. Ciao, un bacio, ciao Beatrice. Mamma mia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.